se la trabucco. Chi avanti? Avanti chi ha parlato? Le balle. Chi è avanti? chi ci sta chiedendo soldi? A me stai chiedendo soldi. Ma quindi tu sei? Io 6.500 è questo. Ma con chi stai parlando, Natale? Attenzione, dici. Oh Gianni. Grazie. Aspetto il Senato e entro subito. Tranquillo, tanto mi sono al telefono. CQ10? Uè Robè. E me, è finita su 19, te c'è, allora vediamo un po' se c'è qualcuno. Eia, eia. Vito lo sarebbe acceso. Ma pensavo qualche finalino così. Sulle finali. Quanti ci sono? Quanti kilowatt c'è di roba? Se li accendi, diciamo, a 1 a 1, tu hai assolutamente c'hai 4 e mezzo. Diciamo 4 e mezzo totali. Me ne avevo 2 accesi perché quelli delle trombe. Perché hanno, l'altra volta ho preso un po' di coriandoli, quindi li ho puliti, li ho tolti dal rack, puliti e erano accesi un po'. Sembra che sia tutto a posto. Non mi hanno fatto difetto di niente, però io dopo li metto per il carnevale, perché quella è roba che uso da lavoro per lavoro e dopo li sacrifico, ma dopo devi fargli la manutenzione, mi segui. E addirittura che usate a carnevale tutto quel blocco, quel rack così? Eh sì, c'erano 6 sub 8 fette, 6 sub 8 fette. Ecco, erano molti concerti di paese, non c'hanno da tavola a Roma. Infatti chiamano per quello, capito? Dov'è che è stato utilizzato? A Perfugas, ma lì sono fatte scatenate. A Perfugas, a Camarza, a Solarussa e a Siamanna. Sono micidiali, cioè li avete messi in un carro quella roba lì? Eh sì. Mi mando un video dell'impianto che c'era. Cazzo, micidiale. Camminare naturalmente deve stare molto molto attenti con la pioggia, se c'è qualche scemo che butta qualche bottiglia di birra o qualcosa. Scherzi, ma infatti credo che sia anche l'ultimo anno che fornisco roba così, perché poi è un lavoraccio a risistemarla, capito? Ma forse c'è stato un break avanti. Buonasera a tutti. Come dici già? Ehi, ero io. No, perché ho sentito un break, però non ho visto il segnale. Sa fosse più lontano, no, già stai andando. Dai. C'è anche Gavino, te lo rilascio. Avanti Gavino per Gianni. Sì, ciao Gianni, buonasera di nuovo. Ho finito adesso, mi sono entrato 3 minuti fa. Io. Va bene. No, mi è mancata la luce perché avevo questa roba accesa e poi mia moglie ha attaccato il forno, no, ma non lo sapeva, quindi non è colpa mia che non l'ho avvisato. A me è già capitato più di una volta, mia figlia un'altra volta non se ne accorgono, attaccano un po' di roba e poi mettono una stufa, che gli ho detto state attenti che quando c'è questa la lavatrice o cose grosse non devono partire, se no mi salta tutto. Infatti più di una volta succede, poi me ne accorgo subito io, perché dove c'ho la stanza da letto lì c'ho un ricevitore satellitare, come manca la luce subito da l'avviso. Beh, per forza, c'erano 4 kW di assorbimento solo in quella affare va attaccato. E sì, già, mi è mancata quando diciamo è chiuso tu, mi è mancata la luce. Dai, per fortuna tutto bene. Ehi, a casa di mamma queste cose non succedevano mai, adesso con i nuovi contatturi, non puoi attaccare più di tanto perché sennò scatta. Ma neanche a casa di qualcuno che conosco, perché è attaccato all'Enel. Allora Gianni, ti spiego perché non succedeva prima, perché erano meccanici i contatturi, per cui avevano delle tolleranze esorbitanti, col tempo poi si impallavano, per cui anche se ti davano 2 kW in più non se ne accorgeva nessuno. Lo strumento non interrompeva, questi nuovi sono calibrati a avere un 10% di coso, se superi quel 10% arrivano al 30% come picco, poi tac staccano. E mi ha dato limite superato il 30%. Infatti come superi il 30% è finito. E la cosa ridicola che io sono andato fuori anche in altri posti, in altre nazioni, non c'è limite di corrente, per dire ti danno il contattore, a meno che certo non ti danno 100 kW in casa, tu puoi attaccarti anche 15 kW, ti paghi il consumo, per dire anche negli Stati Uniti, in Albania, in paesi Austria, cose del genere, tu puoi attaccarti, ti danno il contattore, non hai limite, cioè un limite teorico ce l'hai, come ho detto prima, però se tu per dire utilizzi normalmente 3 kW e poi il giorno vuoi fare una festa e vuoi mettere 10 kW di amplificatore, puoi andare lo stesso, ti fanno pagare una tariffa diversa e naturalmente anche un prezzo diverso, e non hai limite, e la bellezza è questa. Io non ho mai capito per quale motivo in Italia non fanno la stessa cosa. E perché qua non hanno capito che forse avrebbero guadagnato anche di più, forse gli introiti sarebbero stati anche di più. Riprendi già. Sai perché non lo fanno? Perché già consumando poco paghi un benzina, se poi dovessi attaccare così in più guai. Adesso stanno facendo tutta questa politica delle macchine elettriche e tutto quanto. L'unico posto nel mondo, l'Europa, la comunità europea parliamo, un paese europeo, è la California, poi mi sembra forse in un'altra nazione, in tutto il mondo, vogliono puntare sull'elettrico. Il problema dell'elettrico, per questioni di inquinamento, che sono solo fesserie, perché hanno fatto l'altro giorno una prova per fare da Milano a Napoli in macchina, ha consumato di meno con la macchina diesel, una Golf 8 diesel, ha consumato mi sembra 70 euro o 80 euro di carburante per scendere a Napoli in autostrada, mentre la stessa macchina si è dovuta fermare più di una volta e ha consumato 110 euro di corrente elettrica per fare lo stesso percorso. Poi la cosa importante, dove cavolo sono le centraline? Diciamo che oggi dall'oggi al domani siamo tutti elettrici, e dove ci attacchiamo? Il consumo eccetera, dove prendi la corrente? Devi per forza creare delle centrali di produzione eccetera eccetera, per cui di cosa stiamo parlando? A Sassari hanno fatto le colonnine, hanno messo le colonnine dell'Eren. Sì, ma ci sono, stanno entrando piano piano, però già se tu ci sono a Sassari siamo 130.000 abitanti e ci sono per dire 10.000 macchine a Sassari e devono caricarsi, dove le fai 10.000 centraline? Perché tu a casa tua, se ti utilizzi la linea di casa, ci paghi 3 giorni per caricarti una macchina, per cui loro ti devono dare 15 kW, 20 kW, 50 kW per avere tempi brevi di ricarica. E da dove la prendono questa corrente? Per dire, se tu vai a Granai, sotto nei parcheggi ci sono le colonnine gratis, tu ti fai la spesa, mentre fai la spesa ti carichi la macchina. E cosa ti carichi tu in un'ora? Che diciamo per fare la spesa ci impieghi mezz'ora, un'ora. Loro magari hanno 10 kW e ti sto volendo anche bene. C'è una macchina che ci vogliono di 100 kW, ci vogliono 10 ore a caricarla la macchina, se la batteria è completamente scarica. La gente si deve fare anche in conti. 100 kW diviso 10, ci vogliono 10 ore. Di cosa stiamo parlando? Beh, un po' di carica te la dà, cioè magari non sono scariche del tutto, per finire la carica te la attacchi e un po' te la dà mentre fai la spesa, è una comodità, scusa. Sì, sicuramente sì, però stanno cercando di fregare la gente con queste bugie, queste cose che dicono che non hanno senso, macchine elettriche non inquinano, e quelli che devono produrre le batterie, tutti quei sono assolutamente tossici, tutti quei materiali che tra l'altro sono la maggior parte di questi prodotti, minerali vengono dalla Cina, che c'è lavoro, non ne parliamo, come è fatto questo lavoro, da dove, come li sfruttano, e tu stai inquinando la terra con tutti i residui di questa produzione per avere, non so, un chilo di litio, non so quanti centinaia di migliaia di chili di materiale ci vogliono, e quel materiale lì lo devi lavare tutto quanto per recuperare il litio, non so quanti tonnellate, ed è altamente tossico. Vabbè, l'unica cosa sarebbe, poi magari ti faccio parlare, l'unica cosa sarebbe inventare delle macchine che ricaricano automaticamente, mentre tu cammini, come caricano la batteria della macchina, che ricarichino la macchina e la corrente per camminare. Ecco, sarebbe una cosa ingegnosa quella, di modo che non c'è bisogno né di colonnine né di nulla, le ricarica la macchina e boom. Il problema è l'accumulo, però già, non è tanto il rendimento del motore elettrico, è di 10.000 volte migliore di un impianto a combustione, un motore a scoppio, c'è il 95% di rendimento contro il 40-45% del motore a scoppio, con tutti i problemi che ci sono, cambio, raffreddamenti eccetera eccetera, e il problema è l'accumulo. L'unica soluzione è utilizzare almeno per i tempi di adesso l'idrogeno, assolutamente pulito, è economico, non ha il limite limitato, è così, è puntare sull'idrogeno come sta facendo qualcuno, anziché puntare sull'elettrico. L'elettrico purtroppo ci sono dietro le multinazionali, è quello il problema. Se tu fai una cosa gratis, l'idrogeno è in natura è assolutamente in quantità inestimabili, immense, mentre l'energia elettrica devi produrre e ti devi collegare come tu ti colleghi a una banca, come ti colleghi a un distributore di carburanti, a queste grandi multinazionali. È tutto un giro vizioso per guadagnare loro. Ma secondo te perché non le fanno i idrogeno? Non convengono, perché l'acqua la trovi a tutte le parti. Ma certo che sì, vai Gavi, scusa il monopolio. No, continuate perché il discorso non mi interessa, però io di questa roba qua non me ne intendo, quindi non potrei agganciare un discorso, capito? Perché non me ne intendo, quindi riprendi Gianni che è una cosa che mi interessa ascoltare. No, ma qui non me ne intendo, io sto dicendo la mia, Gavi, di la tua. Io non è che sia un meccanico per valutare certe cose, però col mio cervello penso che a idrogeno non verranno mai fatte le macchine, perché l'acqua la trovi da tutte le parti, quindi non c'è più bisogno di comprarla, non ci sarà più commercio di combustibile né niente, capito? È quello che loro temono. Sì, è sicuramente quello. Diciamo che l'idrogeno è ancora nella fase di sperimentazione, un pochettino delicato da utilizzare, perché è un materiale assolutamente esplosivo quando se non tratti in certi modi, perché lo devono scomporre, le molecole devono scomporre. Però come hai detto tu, è un materiale in quantità illimitata, assolutamente pulito, non produce nessun residuo, perché le macchine elettriche tu dici non consumano, non producono niente. E le batterie cosa le fai? Dopo 10 anni ce le butti le batterie, perché dopo un giro, un certo numero di cicli di carica, è come il telefonino, piano piano col tempo perdono di efficacia, non hanno più resa. Poi la gente non si ricorda che il consumo estivo, soprattutto con i climi nostri, quando tu attacchi l'aria condizionata in piena estate a 40 gradi, prova ad attaccare una macchina elettrica quanto ti dura la carica, che c'è un assorbimento da paura. La gente è disinformata, la gente si fa, io ho tante, ne ho visto tante, amici, mio genero c'hanno la ibrida, la macchina ibrida, gli ho fatto tutto un bel discorso, ho detto, ma ancora è pagata quella macchina, è pagata il 30% in più, quanto ci vuole a consumare quegli 8.000 euro in più che hai speso della macchina, quanti chilometri fai, quanto carburante consumi con quegli 8.000 euro, perché prima di ammortizzarlo ci vogliono 20 anni per quella differenza di costi, e poi alla fine non c'hai niente di nessun vantaggio, perché quella ibrida sino a 30 km orari funziona, se c'è la salettina non ce la fa niente, perché sono circa 8 kW di potenza, per cui se c'è una Toyota, quella è una Yaris, appena trovi una salettella ti fermi e devi convertire direttamente, per cui è tutta una cosa ridicola. L'hanno fatto per abbassare i valori dell'inquinamento, se no non gli danno la possibilità di vendere le macchine. Le ibride sono fatte apposta per quel motivo lì, per rientrare nei parametri Euro 6, Euro 7 eccetera eccetera. Non c'è sistema, perché il motore a scoppio è arrivato al limite con le strozzature e tutto quanto, quello che c'è non riesce più a rendere come dovrebbe, per cui hanno detto, per aggirare gli ostacoli, prima hanno messo il coso, lo start and stop, che riduceva un pochettino secondo loro i consumi, quando la macchina, i consumi, le emissioni in questo caso, mentre nel discorso del libro l'hanno fatto per rientrare nei valori di coso, se no è assolutamente impossibile arrivare a quei valori Euro 6 o Euro 7 se non fai queste leve. Parliamo di macchine di una discreta cilindrata, le piccoline piano piano riescono, infatti stanno riducendo i cilindri, un sacco di cose, e anziché lavorare con 4 cilindri lavorano con 3, addirittura anche con 2 cilindri, in modo, stanno abbassando la cilindrata in modo che le emissioni rientrino nei parametri. È tutto un giro, una mangiatoia, è una truffa. A chi può mangiare di più, si sa che è così, no? Si sa che è così. Avanti, ma io penso una cosa, il mio pensiero è questo, che loro il motore a scoppio, allora diciamo i grandi, questi non so neanche come definirli, perché è un discorso che a me intanto si dà per scontato che loro il motore a scoppio non possano mai mai mai sostituirlo. Loro dicono che dal 2035-32 non immatricoleranno più macchine sia diesel che benzina, ma è una cosa che non ci credo, è una cosa che non ci credo, perché allora gli interessi per il gasolio, diciamo per la produzione del petrolio, queste cose qua sono troppo grandi. Se in Italia o diciamo in Europa dovesse succedere una cosa del genere, allora veramente scoprirebbe la terza guerra mondiale. Vabbè, c'è già la terza guerra mondiale, a parole però c'è già. Non possono farlo come si dice, a forza della ragana, perché il motore a scoppio non verrà mai sostituito. Io parlo di motore a scoppio a combustione, come si può dire, per il caso che farà benzina, anche perché ci sarebbe una rivoluzione meccanici, elettronici, queste cose qui. Allora, Gianni, il problema è questo. Se io non me ne intendo, parlo sempre da ignorante in materia, se io mi compro la macchina elettrica adesso, no? E devo scendere, devo andare a Cagliari d'estate con il trattore acceso, radio accesa, luci accese, perché devi tenere accese. Allora, io a Cagliari con un rifornimento elettrico non arrivo. Dove trovo una stazione? Allora, io per andare a Cagliari, quindi se adesso ci metto 2 ore, 2 ore e un quarto, 2 ore e mezzo, se la macchina ci mette 10 ore per ricaricare le batterie, in questo momento parlo, io per andare a Cagliari ci dovrei mettere 14 ore, quindi 14 e 14 sono 28 ore, giusto? Quindi per andare a Cagliari ci metto 28 ore, perché devo fare 2 piedi di elettrico, o devo farne 2 a scendere e 2 a salire. Quindi 28 ore per andare a Cagliari, più la commissione diventano 36 ore, sono 3 giorni. Mi sembra un calcolo che l'ho fatto io da ignorante, e quando mai non si fa un calcolo, una persona che sta comprando una macchina elettrica, voi ditemi se sto sbagliando, riprenderò bene. Intervengo io, ha detto le cose giuste e sensate, stiamo parlando in condizioni ideali, perché se tu inizi a caricare la macchina, accendi l'aria condizionata eccetera eccetera, trovi una salita, trovi un ingorgo, un incidente che ti devi fermare eccetera eccetera, devi rallentare, cammini piano, cioè i chilometri quelli teorici che dovrebbe fare la macchina verranno dimezzati. La macchina elettrica io la consiglio, e c'è un bel prodotto che ha fatto la Citroen, e uguale la sta facendo adesso il gruppo Stellantis, tra cui c'è anche la Fiat, quell'AMI, non so se l'avete vista, quella è una macchina a 2 posti, le dimensioni più piccole di una Smart, tutta in plastica, leggerissima, c'è un motore elettrico da 8 kW, c'è un'autonomia di circa 150 km. Per l'Italia quella va, l'Italia scusa, per la città è l'ideale, una macchina leggera, la metti in qualunque buco, c'ha 8 kW il motore, in 4 ore utilizzando la rete, la corrente di rete che c'hai a casa, l'attacchi la notte, in 4 ore ti ricarica tutto. Il problema è quando stiamo parlando di motori quelli più potenti, dai 60, 70, 80 ed oltre kilowatt, con quella tensione, con la corrente che c'è a casa, con gli ampere che c'è a casa, con i watt, ci vogliono tante ore, per cui non ne vale la candela. Il discorso, ci sono sistemi, ho visto motori visti di presenza, dei lavori utilizzando motore ibrido, però utilizzando l'idrogeno come aiuto, diciamo. E ho visto che dà un 20% in più di coso, di riduzione del consumo, per cui ti dà quel guadagno in più, senza far niente, un semplice contenitore, un produttore di uno scompositore di idrogeno, un sistema di recupero, e con pochi soldi, cioè, infatti l'ho visto qualche anno fa, ho visto la dimostrazione, ed è una cosa abbastanza semplice, senza essere pericoloso, perché l'idrogeno ancora bisogna stare un po' attenti, e quello è il sistema migliore. Tornando indietro col discorso dei diesel, i diesel non vorranno mai, sono piantati secondo me per 100 anni, a meno che non inventano qualche sistema di trasmissione, cioè di movimentazione, che per il momento non esiste. Tutti i mezzi in Italia sono su gomma, treno non ne abbiamo e sono tutti diesel. I treni, la maggior parte sono diesel, per cui di cosa stiamo parlando? Le navi sono quasi tutte diesel, e cosa fai? Fermi, li fai elettriche le navi. Facciamo riprendere a Gianni, che ci darà anche il suo parere. Sì, ma poi dietro c'è tutta la catena che andrebbe a chiudere, i rifornitori, i meccanici, un po' tutti, dai, tutta la catena che c'è dietro andrebbe a chiudere i battenti, sarebbe un fallimento totale. No, dovete dovresti formare da zero tutto il mondo, proprio tutto il mondo, dovresti prendere eliminando il motore diesel, benzina, la miscela, perché ormai vabbè la miscela non c'è più, però a me chi mi può impedire di mettere in moto la moto zappa? Ti parlo sempre da ignorante. E ti parlo di quello che ho io, cioè se io mi devo fare un pezzo di un solco con la moto zappa, me lo posso fare anche con la zappa a mano, però se la moto zappa la voglio usare, tu non mi puoi impedire a me di usare la moto zappa, perché allora stiamo entrando in dittatura, quella è una dittatura, e alla fine ci sarà la rivoluzione. Ed è vero, le navi non puoi mettere, a meno che non gli fai una coperta, gli fai un ponte a tutto a pannello solare, a pannelli solari, le macchine, le vernici, invece di vernici di farle con la vernice, le riempi, fiancate, sportelloni e modellature di tutto a pannello fotovoltaico, e allora saranno un colore neutro, tutte uguali, la stessa macchina, tutto a pannello fotovoltaico. Che si ricarica da solo, però purtroppo almeno io penso, ripeto, per quanto possa essere ignorante in materia, che non si riuscirà almeno per credo per 100 anni a paragonare il tempo di un pieno che si fa di gasolio con un pieno che si fa di corrente, perché al momento fare un pieno di, per, come ha detto Roberto, di una macchina, e adesso parlo per sentito dire da Roberto, un generatore di 8 kW ci mette per ricaricare 4 ore, io ti voglio vedere, se tu devi andare, devi scendere, io ti parlo sempre Porto Torre Cagliari, di fermare fra 200 km e aspettare 4 ore che riparta il pieno. Ci metti tempi, sono tempi infiniti per fare dei tragitti, che con il diesel ci metti la metà del tempo. Poi adesso ci sono valvole IGR, ci sono tutte queste cose qua, filtro antiparticolato, filtro queste cose qua, tutti i filtri possibili e immaginabili. Per quanto ne possa capire io, è tutta una questione economica, perché cioè diciamo di interesse economico, perché non lo vedo. Sì, è vero, le vecchie uno turbo diesel, le vecchi fiori di turbo diesel, queste cose qua, fumava un euro 190, 42, 48, fumavano, ma io dico una cosa, sono state altre le cause che hanno creato l'inquinamento, perché ti posso dire che nelle città sì, ci sono le afe, ci sono queste cose qua, dallo smog e tutto, però sono altre cose, tra le quali le centrali a carbone e tutte queste cose qua. Non è di certo un motore diesel che intanto guarda, secondo me, per come la penso io, se uno brucia un mobile verniciato fuori in campagna, inquina quanto è un'accelerata o quanto 10 km una macchina diesel. Allora intervengo io, dico altre cose. Allora, noi non parliamo neanche di aereo, sapete quanto inquina un aereo? Allora, un aereo di linea, di quelli Boeing, quei 737, 777, diciamo, quelli che fanno voli intercontinentali, la quantità di inquinante, diciamo, che buttano ad alta quota, perché quelli camminano, navigano, volano ad altezze di 6, 7 mila e oltre, metti da terra, per cui tutte le particelle inquinanti rimangono sospese nell'aria, la quantità che in un tragitto da Roma a New York è quanto più di 1000 macchine che camminano col motore acceso tutte insieme in un unico punto. È una cosa strabiliante, quando ho visto questi valori si mette le mani in testa, per cui ci sono troppe cose, le aeree devono per forza funzionare, elettrici, hanno fatto degli esperimenti, ma a livello di alianti è ancora inconcepibile utilizzarlo, diciamo, per cose pesanti. Tornando al discorso che ha fatto Gavino dei pannelli solari, tenete presente attualmente un kilowatt a metro quadro, per cui per avere 10 kilowatt ci vogliono 10 metri quadri di pannelli solari, avendo i 10 kilowatt in pieno sole, in giornata soleggiata, perché quei pannelli nuovi, se non hai una giornata di sole, perché con quelli vecchi erano più ingombranti e più pesanti, bastava un po' di luce e riuscivano a funzionare, i nuovi devono avere piena giornata di luce, per cui ti hai presente, è una cosa ridicola, ti metti 10 metri quadri sopra una macchina e cosa fai? 10 kilowatt teorici in condizioni ideali, per cui lasciamo perdere. La Fiat ha fatto un sistema abbastanza rivoluzionario che potrebbe essere adottato uniformando tutti i discorsi, e la 3 più 1 si chiama, una macchina che ha delle batterie estraibili, un po' come facevano i cavalli, che ti fermavi alle cose, alla stazione di Biada, ti togli queste batterie estraibili e ti danno il ricambio delle batterie, sono a cassetto sotto la macchina, le prendi e vai, e ci hanno totalmente riempita di pannelli solari tutte le superfici, dal tetto, il cofano, eccetera eccetera, e i fianchi dei sportelli che sono inclinati in un modo particolare, un pochettino di carica te lo danno. Questa potrebbe essere una soluzione, però parliamo per brevi tragitti, no per tragitti Sassari Cagliari, vai in città, ti riprendi come facevi con i cellulari 20 anni fa, la batteria di scorta, quando è finito attacchi lo stacchi e l'altra la metti in carica tutta la sera o quello vuoi tu. Naturalmente stiamo parlando di kilowatt, pochi kilowatt, motori da pochi kilowatt. Vai Gianni, riprendi. Sono discorsi impegnativi, nel senso che sono cose nuove e bisogna prima provarle e vedere come vanno. Noi, per dire, in ditta abbiamo preso un Nissan per fare le consegne, che usiamo in città, e quello ci fa comodo perché usato in città è veloce tutto quanto, poi lo metti in carica, scendi giù, lo metti in carica tutta la notte, l'indomani ce l'ha pronto per viaggiare, e per fare le consegne va bene, ma non andare fuori. Naturalmente, se non fai grossi tragitti, perché se tu la batteria la scarichi completamente ci metti 2 giorni a caricarla, perché un motore del genere io penso che ci abbia almeno un'ottantina di kilowatt. Fai che ci avete 10 kilowatt voi, 80 diviso 10, fate lo conto quante ore ci vogliono a caricarlo. Voi magari non lo fate mai scaricare completamente, però io ho visto, ci sono anche i camion stanno facendo adesso, soprattutto c'è un camion cinese, ma devi vedere, non riesce a gestire la coppia perché girava, l'ho visto in una salita, vedi questo camion scommando, carico era, perché c'è una coppia impressionante rispetto al motore a benzina, non riesce a gestirla perché anche al minimo dei giri quello sta spingendo il motore, in salita vedevi questo motore e queste ruote scommando, non riusciva a fare una salita ripida, era carico, giravano le ruote a vuoto, quello è anche un grande difetto, può essere un vantaggio per altre cose avere la coppia istantanea, ma quando è sotto sforzo per certi tipi di lavori non va bene. Vanno bene per i muletti, quando devi fare gli scarichi delle veci, passaggi brevi, almeno stiamo parlando per il momento, quando ci saranno le future batterie che stanno dicendo, queste a grafene che sono più leggere, che hanno cicli di carica veloci eccetera eccetera, poi ne riparleremo. Attualmente non c'è niente, parliamo a livello commerciale, poi a livello spaziale c'è la NASA, ce li ha da 10 anni le batterie, quelle nucleari eccetera eccetera. Riprende Garvino. Per il camion, come quello che abbiamo noi, siamo 190, il 48, 190, 48, il 3 assi, 10 metri, quello lì, quello è strappato, matto nella terra, roba, quello è strappato e fa venire a terra, quando è carico, noi, ne vogliamo, che ne, ce ne vogliono camion elettrico, ma tu pensa che quando tu carichi un camion, no? Che trasporta 25 tonnellate, lo devi far andare a corrente, a elettricità, dove ci vuole un rimorchio per le batterie, devi avere un autotreno, diciamo un rimorchio per la merce e l'altro per le batterie. Guarda, secondo me di questa cosa qua non se ne parlerà neanche per il 2000 e, per il 2200, fidati che almeno per quanto ne possa capire io, il motore a gasolio, che ha, diciamo, il motore a scoppio, non avrà mai soluzione per inquinare di meno, però devono tenere presente anche che non è solo il motore, diciamo, delle autovetture o dei camion o dei mezzi a trazione con motore gasolio o benzina ad inquinare, perché come hai detto tu ci sono gli aerei, ma noi ci rendiamo conto adesso una carrozzeria, non una carrozzeria che vernicia due macchine al giorno, perché credo che di più non le vernicino, due macchine al giorno, dicono sì ma c'è il forno ad acqua che aspira, ma tutte quelle polveri lì, il 70%, il forno ti può aspirare il 40%, il 60% va nell'aria, è quello perché non è inquinamento, allora non dovremmo neanche più, scusando la parola, scorreggiare, no? Perché anche quello è inquinamento, non devo, allora quando trovi le persone che bruciano mobili verniciati in campagna, quello non è inquinamento, la vernice quando brucia fa quel fumo bianco, quel fumo strano, quello è inquinamento, oppure le gomme, oppure... Secondo me troveranno delle soluzioni per il motore a scoppio, e li lasceranno, perché sarà una spesa molto molto molto importante a livello mondiale, e poi ci saranno delle rivoluzioni, no, cioè non da poco, perché tu pensa, il primo a buttare la bomba atomica in Europa saranno i paesi arabi. Comunque qualcosa l'hanno fatta, non elettrico, però a GPL, i pullman adesso li stanno facendo a GPL, specialmente in continente. Gianni, le macchine, la minima cosa, l'inquinamento non lo fanno le macchine. Se tu prendi una stalla, un'azienda agricola, tu lo sai cosa producono di inquinamento, ma inquinamento vero, perché le macchine, noi parliamo dei diesel, vedi tanto fumo, quello non è un inquinamento pericoloso, perché quelle sono particelle pesanti e rimangono in terra. Il problema sono le macchine a benzina. Tra di fatto, negli anni 90, quando sono iniziate a uscire l'Euro 1, Euro 2, Euro 3, i diesel non ne utilizzavano i catalizzatori, in benzina per rientrare nei parametri avevano il catalizzatore obbligatoriamente per entrare in quei valori. Sino a 95-96 i diesel avevano dei valori di inquinamento molto inferiore al benzina, senza bisogno di catalizzatore. Adesso li stanno mettendo anche nei diesel, già filtrante particolato, doppio catalizzatore, AD Blu, un sacco di malassuti si stanno mettendo per cercare di rientrare in valori, perché sono sempre più restrittivi questi valori, però non hanno la colpa ai diesel, e non è vero assolutamente che il diesel inquina, sembra che inquini più, perché molte volte quando non è calibrata bene la pompa di iniezione fa del fumo, ma quelle sono particelle pesanti visibili. Il problema è quando c'è il benzene, che quello è assolutamente tossico e va nell'atmosfera, quello sì dovete stare attenti, che ce lo respiriamo tra l'altro, perché sono invisibili, e quelle sono le cose più pericolose. Poi stanno ritornando in voga i motori a due tempi, che prima dicevamo erano assolutamente inquinanti, invece motori a due tempi ha una resa di gran lunga superiore, perché per fare la stessa produzione di energia impiega due fasi anziché quattro fasi, per cui ci sono delle limitazioni rispetto agli altri motori a quattro tempi, ci sono i sistemi elettronici di controllo, per cui molti motori, anche la Fiat in questo caso è l'avanguardia a livello mondiale, sta ripopolando riproducendo i motori a due tempi, già ne hanno fatti i motori marini a due tempi a iniezione elettronica, e hanno dei valori di coppia impressionanti, emissioni molto più basse, eccetera eccetera. Vai Gabriele. Sì, è bello. Sì Roberto, io sono d'accordo, perché guarda, a volte vabbè l'ignoranza, cioè non l'ignoranza, il non voler capire le cose è una brutta bestia. Guarda, vabbè, adesso ti dico una cosa molto veloce, cioè velocemente. E a me è capitata un'occasione 2 anni fa di prendere una Fiat Bravo, la conosci, di questo signore anziano che è morto, e aveva 25.000 chilometri del 2007, dico anche quando l'ho pagata 3.500 euro, 2009 multigetto, 8 valvole, il miglior motore che ha fatto la Fiat, 2009 multijet, 8 valvole, non il 16. Lo sai, questi qua erano di Pavia, perché detto, scusate, ma perché non vi portate la macchina? Perché non l'avete venduta da voi? O perché non ve l'avete presa voi? Perché da noi questa macchina non può circolare. Ma detto, questa è classica parola, qua da voi può circolare. Io ho detto, vabbè, fa una cosa, io ho soldi in contanti, dammi la macchina. Robè, 25.000 km l'ho portata perché dal 2007, diciamo dal 2007 al 2021, ha fatto 25.000 km, l'ho portata, è venuto il carro attrezzi a prenderla perché non l'ho messa neanche in moto, perché avevo paura per la distribuzione. È venuto a caratterizzare la prenda, l'ho portata a produttore, sono fatto distribuzione, tutti i liquidi, tutte le cose, tranquilla, ed è una macchina, e non è inquinante, cioè perché una macchina a posto, questa macchina sì o no, sono andata in testa, non fuma, mi segui, quindi non ho capito che problemi hanno. Non lo so. A Pavia loro non potevano utilizzarla perché non era euro, non so cosa, però vabbè, lasciala qua che la prendo io. Vai Roberto. Sì, ha detto una cosa che ha anticipato quello che volevo dire io. C'è un amico mio di Genova, c'ha un Audi, grande motore, grande macchina, adesso ce l'ha buttata via, lui non può più circolare, dal 1° gennaio non può più utilizzare quella macchina, è costretto a cercarsi un'altra macchina oppure andare a piedi, come diciamo a Sassari. La vergogna è questa qua, nelle grandi città dove c'è congestionamento di traffico, è iniziato da Milano, tutte quelle città dove c'è Piano della Padana, diciamo, dove non c'è ventilazione, grazie a Dio ancora a noi non ci hanno toccato, perché se no sono guai grossi. Come fai tu a comprarti una macchina? Perché prima di tutto verranno svalutate di gran lunga tutte queste euro 2, euro 3, euro 4, non avranno più valore, ti troverai delle macchine assolutamente performanti, confortevoli, eccetera eccetera, varranno zero, tipo quando c'era successo il discorso del Superbowl, non so se ve lo ricordate, tutti i diesel hanno perso valore e ce li buttavi via, perché avevano messo quella tassa, alla fine costava più il mollo che tenere in vita la macchina. Ok, vai Gianni, riprendi. Sì, anche la mia già costa un po' il mollo, 230 euro di mollo qua. E io ne parlo anche di più, io ho il GTD, lo stesso motore 1900, uno dei migliori motori, diciamo recenti, abbastanza recenti, perché poi ne ha fatto altri la Fiat, ancora meglio di quelli, però motore indistruttibile, super colorato, l'ha venduto a tutto il mondo, a tanti marchi anche importanti, come il nuovo 1300 Multijet, il 1600 sono motori, la Fiat viene tanto criticata e fa i migliori motori del mondo, in assoluto. Tutti i brevetti, dal Comorrel, Multijet, Multe, sono tutti brevetti Fiat, e ABS, eccetera, sono tutte cose. Quando era uscita la regata Energy Saving, è stata la prima macchina al mondo che aveva il sistema start-stop. Adesso l'hanno riportato in giro gli altri. La prima macchina elettrica di grande produzione è stata l'Alfa 33, e si sta vantando la Toyota che loro qua, là, sono leader, non è ancora di mangiare bene. Sì, lo sai che... Oh Roberto, che macchina avevo, che macchina ho avuto io appena patentato. Io appena patentato ho preso la Lancia Tema 2000 turbo benzina, la Tema LX, in pratica aveva il motore del Deltone, e secondo me motori così non ne fanno più, perché quella macchina lì, quel motore lì era, io l'ho data con la macchina, perché poi ho preso la macchina nuova e ciccia, poi avevo preso questo tema grigio, era canna di fucile, questo tema grigio, la Tema LX, nuovo impeccabile, e ancora oggi i motori sono ricercatissimi, perché sono riusciti, consumavano la sorte perché era una macchina, però era un motore affidabile. Sì, e adesso ti dico una cosa riguardo di quel motore, non so se lo sapevi, quella macchina aveva l'overboss, era un sistema di pressione di turbina che tu lo potevi fare sparare tutto in una volta, allora se tu acceleravi progressivamente il turbo entrava in pressione progressivamente, se tu da fermo davi un colpo di acceleratore, gli davi proprio un'accelerata profonda, ti dava la pressione di 2 bar istantaneamente, tu come sgommavi c'aveva un'accelerazione, la paura con la macchina, era una bestia, grande macchina, una delle migliori lancia che hanno fatto negli ultimi negli ultimi anni, diciamo quando è iniziata ad arrivare la Fiat, probabilmente la migliore Lancia da quando l'ha presa in mano la Fiat, perché la Lancia era a livello mondiale come tecnologia quando era Lancia, parliamo, ha fatto delle rivoluzioni in tutti i settori, dalla scocca portante, sospensioni dipendenti, motore box, eccetera eccetera, li ha inventati la Lancia, tutte quelle cose lì, 10 anni prima di tutti gli altri. E quella lì aveva una bomba, quel motore era una scheggia, poi avevano fatto anche 5 cilindri, avevano montato che è andata a finire nel coupé, che aveva 250 cavalli, una bestia di motore, grande macchina, la tema, tanto di cappello. Sì, sì, io avevo, la mia aveva 203 cavalli, era 203 cavalli, le X in tendi bianchi in Alcantara, il cruscotto tutto in radical in noce, in legno, tetto apribile, era un macchinone. Io con la macchina lì, te lo faccio raccontare, prendevo, facevo prima e seconda tranquilla, affondavo, mettevo la terza, affondavo e pattinava, si mettevano le ruote a 30 gradi davanti, faceva paura, faceva, sgommava in terza con la macchina, ma così mi senza, ma senza problemi, e sull'asciutto, sull'asciutto. Poi vabbè, l'avevo portata, che sono degli amici a Sassari, e gli avevamo fatto la mappatura, e prima l'impianto frenante, avevamo fatto un bel impianto frenante, poi la mappatura, scarico libero, e poi aveva tutti i manicotti erano in silicone rinforzato, era un bel motore. Dopo di quello ho avuto avevo la tela turbo, poi avevo la Lancia K2000 turbo benzina, il 4 cilindri, lo stesso motore, ma era più lenta. Dopo della K ho avuto il GTV V6 turbo benzina e dopo mi sono calmato. Però quel motore lì, il motore busto, lo stesso del GTV, era un qualcosa di fenomenale, era silenzioso lineare, quel motore non aveva una vibrazione, quando mettevi in moto sembrava che stavi suonando il violino, era bello, un'accelerazione molto lineare, non ti dava il colpo come la tema, però aveva un'accelerazione molto lineare, era, poi non aveva una vibrazione, era un motore bilanciatissimo, cantava, ma era un motore che cantava quello. Bene, scusa Gianni, se interrompo, allora quella macchina lì in accelerazione dava Mattana, non so se ti ricordi, la 832, la tema, cosiddetta tema Ferrari, era un 8 cilindri, 32 valvole, una bestia di macchina, uno spettacolo, in accelerazione gli dava filo da torgere, pur avendo quella una cilindrata molto più grossa, un motore 8 cilindri, era una bestia di macchina, però la turbo IE della tema, quando è uscita la prima motore, c'era una pressione di, ti dava proprio il colpo sulla schiena, era una bestia di macchina, perché poi se facevi quel trucco dell'overmosso di dare l'accelerata prima di partire, ti aumentava la pressione istantaneamente, ed era una, faceva da 0 a 100 7 e 9 mi pare, erano accelerazioni all'epoca da paura, cioè a livello di Porsche erano. Avanti già. Vabbè, io ho avuto macchine con minore cilindrata, però mi ricordo bene la 1 Fire che ho avuto, aveva motore eccezionale, poco consumo, andava bene, ti portava da tutte le parti, era una bella macchina. Allora, il motore Fire nella storia dell'auto Fiat è stato il miglior motore mai costruito, rivoluzionario in una semplicità unica, affidabilità unica, quindi anche se tu saltava la cinghia di distribuzione riuscivi a camminare comunque, andava lo stesso, i meccanici sono lamentati, pesava quel motore 65 kg, era una cosa esagerata, consumi inesistenti, nel senso era una cosa ridicola, camminava eterno, non si fermava mai quel motore, era veramente un grandissimo motore, e io l'ho avuto, te lo dico per esperienza, è stato rivoluzionario quando è nato, l'hanno copiato e cercato di copiare tantissimo, ma nessuno ci è riuscito, perché era un motore di una semplicità unica, affidabilissimo, leggerissimo, aveva le caratteristiche uniche, stiamo parlando 1983 quando è uscito quel motore, stiamo parlando di 40 anni fa più o meno. E c'è stata una delle prime macchine che ho avuto io, quindi ma i consumi praticamente ti dimenticavi di mettere benzina, te ne dimenticavi roba. Quella macchina lì era poi il primo motore al mondo costruito da robot, perché che era diretta, io li ho visti di stazionamento in stabilimento, costruiva tutto, quasi tutto l'assemblaggio era fatto dai robot, infatti il termine fire, furono robotizzati, non ricordo cosa vuol dire, era intervenuto il computer e i robot per fare come erano i robot, della Comau li facevano quei robot lì, per montare il motore, c'era poca manualità, io ero andato a Cassino, ho visto lo stabilimento, proprio non c'era quasi personale, andavano a controllare i macchinari, era totalmente automatizzato, era lo stabilimento più automatizzato del mondo all'epoca, Fiat aveva investito tanto su quella roba lì e poi vabbè è andata a finire in altre cose. Riprendi da... noi invece della 1 abbiamo avuto la Panda 1000 Fire, già la Panda 1000 Fire l'aveva comprata mio padre, l'aveva presa da De Villa Sassari, l'aveva comprata forse quanti chilometri aveva quella macchina quando l'ha demolita, sempre lo stesso motore, mai bruciato con il tono di testata, queste cose qua. Lui l'ha comprata con 85.000 chilometri, se non mi ricordo male, guarda, 85 o 75.000 chilometri, mio padre quella macchina l'ha demolita per prendere la 600, e se n'è pentito, e aveva quasi 300.000 chilometri. Quasi 300.000 km in quella macchina, aveva cambiato una volta l'alternatore e il motorino d'avviamento. E senza farli, vabbè, le distribuzione, queste cose qua, sì, classica manutenzione, cambi d'olio ogni 10-12.000 km. Però aveva quasi, non mi ricordo se erano 2,97 o 2,95, comunque quasi 300.000 km per prendere una 600. La 600 vabbè ce l'ha ancora, però la Panda 1000 Fire, quella con la Panda camminava, con la Panda faceva 140, con la Panda faceva, perché a volte capitavo di prenderla, con la Panda faceva 140 ed era, non lo so, era non pericoloso, non di più. Però avevano fatto anche la serie 1100 della Panda e camminava ancora di più, era assurde. Mentre degli amici miei, quando io avevo la Tema, avevano anche loro chi il Renault 5 Turbo, chi la 1 Turbo, o chi la 19-16 valvole, chi la Corrado, o perché c'era... ci sono state anche le Corrado a Sassari, un amico aveva la 2000 Gran Turismo, la 2016 valvole, anche quella camminava bene, chi aveva le macchine, le Alpette, che le avevano recuperata dal nonno, l'Alpetta 2000, chi aveva l'Alfa 90, un'altra, e poi chi aveva le... Tutte queste macchine usi, riprendi robe. Sì, all'epoca c'erano le Alfa 33, le quadrifoglio, la 1007 quadrifoglio era una bomba quella macchina lì, talmente pericolosa, era instabile, c'era un motore esuberante, tu come partivi si girava tutto il muso, perché sembrava un animale ribellandosi, era una cosa spaventosa, infatti tanta gente si è fatta male, così con le 1 Turbo, io ricordo la 1 Turbo c'era 134 cavalli, un 1003 all'epoca era un record mondiale, una cosa da paura, la turbo benzina stiamo parlando, c'aveva un amico mio, ne aveva tre anzi se ne ha comprato, due hanno preso fuoco perché c'erano dei problemi di surriscaldamento, c'erano dei tubi, schizzava la benzina, pigliava poco la macchina, ne ha bruciato due di macchine lui, una di 3 mesi l'hanno cambiata in garanzia, gli hanno data nuova, e poi l'altra era fuori garanzia, non gliel'hanno data, dovevi stare attento perché scaldava in un modo esorbitante, c'era un muso, il tubo vicino di iniezione, e come scaldava la marmitta e il calore che generava nell'abitacolo nel vano motore, scioglieva questo tubo e pigliava a poco la macchina. Ne hanno preso fuoco due, era una bestia di macchina. Poi c'era la GT Turbo della Renault, se sono una grande macchina, la Clio Williams, ce n'era una macchina all'epoca, però delle piccoline una bomba era la 1 Turbo, era una cosa pericolosa, c'era le ruote da 14 su una macchina di Formula 1. R5 Turbo, te la ricordi? Sì, erano grandi macchine, però erano assolutamente pericolose, se ti sbattevi con quelle macchine era una cosa. La 1 Turbo è stata la prima macchina con sistema antibloccaggio, si chiamava anti-skid allora, è un sistema incrociato, di bloccaggio delle ruote, che l'aveva brevettata la Fiat, che poi l'ha data la Bosch, l'ha chiamato ABS, ma è stata la prima macchina al mondo con un sistema ancora diciamo pionieristico anti bloccaggio ruote, si chiamava anti-skid, infatti quella di quell'amico era uno turbo e anti-skid sotto c'era skid. Anche io ho avuto Gavin a Panda Fire, ce l'aveva mia moglie, l'avevo comprata mia moglie, quella andava bene lo stesso. Quando l'abbiamo versata, se l'ha presa la Peugeot, quando ha preso la C2C, l'hanno voluta loro, hanno detto ma va bene questa macchina, sì, allora mi faccio il prezzo, la volevo demolire, e invece ha detto che se la compravano loro, se l'hanno presa loro, capito, ce l'hanno ritirata. Sì, sono macchine che vanno bene già, sono macchine che vanno alla grande. E se ne pensi dovevo fare darla quella lì, perché ce l'avrebbe avuta ancora, ce l'avrebbe avuta ancora quella macchina. E robe c'erano, e poi, vabbè, venivano amici dal paese, venivano amici dai paesi, c'era questo qua che aveva l'Y10, uno aveva la 1013 T e uno aveva l'Y10 turbo benzina, il 1100, cos'era 1100, non mi ricordo. Il turbo benzina, schegge, dice, e noi quando veniamo qua dobbiamo stare attenti perché capottiamo, siamo al limite di capottamento ogni minuto, e già un grido, cioè erano assurde, c'è l'Y10, allora io, tu lo sai a me qual è, io ho la tema, a me la 1 turbo, prima, seconda e terza mi ha picchiato, della semaforo di San Giovanni, scendo da Porto Torres, prima, seconda e terza, non turbo, io vabbè, come poi come ho preso G, quarta e quinta, me ne sono andato perché era la mia, era una macchina che gira, però come è stato, ma tutte, noi in quattro, c'ero io, con un amico e due ragazze dietro, e loro erano, questo amico mio, altre tre ragazze, lui la 1 turbo, io la tema. Siamo a Fuori San Giovanni, c'è una Porto Torres, lì prima e seconda, boh, come ho messo la terza, io ho preso giri, me ne sono andato, in pratica siamo arrivati all'inizio della discesa del Marini, che me ne sono andato e lui è rimasto dietro, però le prime marce mi picchiava, le prime marce mi dava, ma proprio mazzana. Ve lo ricordate? Ha detto bene, nei primi 100 metri, 50 metri, con la 1 era la bomba, ma anche la turbo diesel, e allora noi avevamo in casa la 1 turbo diesel, mio cugino c'era la Golf 1006 GTD, che all'epoca era una grande macchina, e buscava forte, ma forte mi dava 1003 e 1, era micidiale una macchina, poi c'era una turbina esageratamente proporzionata, proprio potentissima, dava una pressione molto più alta, perché la Golf era un pochettino più salottiera come macchina, ma la turbo diesel della 1 era micidiale. Ma poi sentivi questo fischio quando mi vedevano a me, c'era una delle primissime che c'era, mi fermavo molte volte, andavo in qualche posto, in qualche paese che non c'era la moto, sentivano tutti, si giravano, che cacchio di motore c'ha questa macchina, perché turbo diesel ce n'erano ben poche all'inizio, poi ne hanno fatto un'invasione, perché costava un pochettino la turbo diesel, ma era una scheggia quella macchina. No, ma non turbo diesel, no, robe, turbo benzina sto dicendo. Sì, no, ho capito, ma sto dicendo anche la turbo diesel, schicchiava macchine ben più potenti, per dire, la Golf GTD 1006, c'aveva molti più cavalli, era più pesante, rapporto peso potenza era migliore quello della 1, però cavolo, ma sul lungo se ne andava, no? Cioè, però in accelerazione era un diesel, ma sembrava un benzina di quelli brillanti, e figurati la turbo iniezione a benzina, era una cosa da paura, si misurava con la macchina, perché era leggera. Io ho avuto la 595 Giannini. Io con la tema 2000 turbo, lei con la 1 turbo benzina mi picchiava, prima e seconda e un pezzo di terza mi picchiava. La 1 turbo diesel era 1700, non era neanche 1300, era 1700, perché il 1300 era aspirato, poi c'era il 1700 turbo diesel che la facevano 5 porte, 3 porte, e poi la 1 gli mettevano il motore della tipo. E ci sono stati amici che hanno messo, cioè amici non conoscenti, che hanno messo che erano riusciti a mettere il motore della tipo 1009, no, il motore della tipo 1009 o 2000 turbo diesel, non mi ricordo, comunque era grande, della 1, e tirava bene, HF camminava un bel, io avevo un amico che ce l'aveva e camminava, non so chi era, Fusa. Sì, Diego Fusa. Quello della Sciaccarnici. Però il mio amico era fratello, dai, e la prendeva anche il fratello. Poco camminava questa macchina, non te ne accorgevi, 200 metri non ti accorgevi che stavi camminando così. Adesso vi dico, una macchina, non so se ve la ricordate, che era una bomba, più bomba della 1 turbo benzina, la Mini de Tommaso Turbo, che c'era un motore 800, era una cosa da paura, pesava 600 kg con la macchina, con un motore, solo motore. La Mini de Tommaso, quella non l'ho conosciuta, non l'ho vista, però diciamo, non è che non l'ho frequentata perché non l'ha avuta nessuno dei miei conoscenti, però a volte l'ho vista sulla Mini de Tommaso lo stesso. E poi a me, Robè, la macchina che mi ha colpito, e camminavo a me aspirato, era la Cadet. Lo sai chi ce l'aveva la Cadet a Porto Torres? La Cadet GSI, quella, la Opel Cadet, gli zingari, ce l'avevano gli zingari color carta da zucchero. Un mostro in piazza si metteva a sommare un sabato, cos'era di sabato, non mi ricordo cos'era, o di domenica sera. Io però ero ragazzino, ero un ragazzino piccolo, non c'avevo ancora la patente, uscivo col sì. Questi zingari prendevano questa Cadet 2000 GSI, capita, robe, partivano sgommando dal cristallo, arrivavano fino alla Banca Nazionale del Lavoro sgommando, di prima e di seconda, faceva paura quella macchina. Sì, la conosco benissimo, c'era la Cadet 2000 GSI, c'erano un paio di Sassari bianche e poi una macchina da paura spaventosa, però più recente, la Opel Vectra motore turbo, non la Opel Vectra, come si chiamava, la Napoli, non mi viene adesso se era l'Astra o che cos'era, lo stesso c'era un motore da paura, 250 cavalli turbo, un 2000, era spaventoso, poi una macchina che camminava da qualcosa male, la Clio Williams 16 valvole, non so se ve la ricordate, era una macchina motore aspirato, ma c'aveva la 1009 GT Peugeot 206, la paura, la stessa macchina che camminavano, la 106 Peugeot, come si chiama, GT, lo so, c'aveva la moto di un 1100 da 105 cavalli aspirato, era la paura. Un giorno scende questo amico da Vesuro con un Serra Consort del padrino, era giusto, c'era quella macchina, il 2VD, il trattone posteriore era roba malata, nera, faceva paura quella macchina. A parte, allora si faceva il traverso a Porto Torres, da dove c'era tutta la curva del Tropical, no, da dove iniziava il Tropical, il ponticello arrivava fino a dove c'era la chiesetta, tutto il traverso. Faceva paura, quella notte è stata, non so se incubo o goduria, bellissimo. Il Serra Consort, il 5 a porte, il 2VD. Sì, la conosco benissimo, quella del tonno dietro. Quella c'era un amico mio adesso e fanno le gare con quella lì. E la macchina, lo stesso da paura, non so se la ricordate, la Rimba Ritmo Abbat 125, la prima serie, e poi l'Abbat 130 TC, doppio albero, una cosa, lo stesso, spaventosa, la carburatura era la 125, quando è uscita, c'è anche una dischetta a quotazione adesso, era una macchina spettacolare. Io l'ho avuta la Ritmo, ne ho avuto due, una Rise e una Targa 1, che alla fine eravamo troppo piccoli, giovani, mio padre ce l'ha tolta, ha detto, per voi è pericolosa, e siamo rientrati uno con la 1, anzi no, tutti e due con la 1 siamo rientrati, io benzina, mio fratello diesel, perché con la Targa 1 che avevamo noi era una macchina pericolosa, camminava troppo ed era un motore 1300, niente di importante, però era molto pericolosa, era molto leggera, cioè un motore esagerato, figurati la 125 Abbat, era una cosa da paura quella macchina. Il 130 TC. Bella. Poi mio fratello ha avuto appunto 1800 HGT, quello stesso era una bella scheggetta, aveva 132 cavalli, ed era anche quella camminava bene, l'appunto. Non la GT, la 1800 HGT aspirato benzina, e camminava bene, camminava, fatto un bel assetto ed era tranquilla. Diciamo un po' nel mondo delle un po' di macchine grandi, già andavamo al quadrato noi a fare un po' di balduria. Tu tu pensa che io, Robe, mi ho preso la patente con la 33, vabbè, mio padre aveva la serie, aveva il 1003 della 33, l'ultima serie aveva presa nuova.